Mi ha colpito tantissimo durante i giorni in cui l'esito del governo Draghi non era ancora acclarato, il fatto che ci si concentrasse molto sulle preghiere europee perché Draghi restasse, ma non si vedeva invece una dinamica generale di cui io mi sono accorta, e cioè che in realtà i focolai di crisi sono molti, non è solo l'Italia a essere segnata da un frangente di instabilità, e quindi mi sono chiesta: ma come si è risolta altrove? La risposta che la mia analisi dà è che in realtà queste fibrillazioni politiche in Europa ci portano più a destra, non perché è una contingenza, ma perché, come dire, l'asse politico si sposta lì. E diciamo il caso più eclatante, più interessante secondo me, è il caso francese. È interessante perché in Francia in realtà la sinistra è tutt'altro che morta, anzi, alle ultime legislative c'è stata un'unione di sinistra ecologista, quindi la sinistra, di solito presa delle proprie divisioni, è riuscita a non solo a unirsi, ma a mobilitare anche un elettorato giovanile, sull'onda anche delle istanze ecologiste che ha saputo introiettare. Però di fronte a un presidente francese neoliberista che non aveva più la maggioranza assoluta, la dinamica che si è creata è che il presidente Macron ha demonizzato la sinistra radicale e di fatto si appoggia a Le Pen, al Rassemblement National. Allora è molto interessante perché quando Macron viene eletto nel 2017, il suo principale obiettivo di mandato è proprio arginare l'estrema destra, ed è con questo argomento che Macron per due elezioni presidenziali riesce a compattare su di sé gli elettori. E invece adesso è sempre più evidente, Macron sdogana la destra estrema, non esiste più il cordone sanitario. Io nella mia analisi faccio anche degli esempi molto concreti, per esempio il Rassemblement entra in forza in Parlamento con ben 89 deputati, prima ne aveva se non sbaglio 8, quindi nell'era Macron sono aumentate tantissimo le possibilità di successo di Le Pen, e grazie alle complicità col partito del presidente in Assemblea Nazionale Le Pen riesce anche a eleggere due vicepresidenti, mentre a sua volta Macron, quando la sinistra propone un voto di sfiducia per il governo Bon 2, può godere delle astensioni tattiche, diciamo così, dei lepeniani. Quindi questo è il caso più interessante, perché in Francia adesso la sinistra c'è, ha delle chance, ed è anche per questo che destra e destra estrema si compattano, quindi l'esito immediato della crisi, o meglio della crisi potenziale di Macron, è proprio un rafforzamento dell'asse tra destra e destra estrema. Poi citi anche l'esempio della Gran Bretagna, dove i conservatori potrebbero mettere al posto di Johnson un premier più falco, e il caso dell'Estonia. Allora, il caso britannico è molto interessante perché quando Johnson, che ovviamente era aggrappato con tutte le sue forze al portone di Downing Street, è stato costretto dai conservatori a preannunciare la sua uscita, tutti hanno detto: ma come farà il Regno Unito, che era un così solido alleato dell'Ucraina? Cosa succederà adesso? Ci sarà grande instabilità. Questo tipo di osservazioni non tiene conto delle specificità istituzionali del Regno Unito, perché quando Johnson se ne va, questo non significa che gli elettori britannici andranno al voto e avranno magari l'occasione di portare un premier laburista. Significa che i conservatori sceglieranno un nuovo leader del partito e poi automaticamente lo sosterranno come nuovo premier. Quindi in realtà i conservatori scalzano un Johnson indebolito dagli scandali per imporre prima un leader e poi un primo ministro che è ancora più a destra di lui. Pensate che Rishi Sunak è stata proprio la figura che ha scatenato le dimissioni in serie che poi hanno portato alla rinuncia di Bojo. E Rishi Sunak lo ha fatto sulla base di una manifesta intenzione di portare più austerity. Nella lettera di dimissioni di Rishi Sunak c'è un manifesto pro austerity, e Rishi Sunak è proprio uno dei due candidati che si sfidano ad avere la leadership. L'altra è Liz Truss, ministra degli esteri, falca contro la Russia, ma anche neoliberista, che non a caso, sia nell'abbigliamento sia nelle idee politiche, è per certi versi molto vicina a Margaret Thatcher, è per il libero mercato ad ogni costo. Quindi chiunque dei due sarà alla guida del Regno Unito, che sia Sunak o che sia Truss, sarà comunque una linea da falco da ogni punto di vista. Tu prima citavi che Macron nel suo primo mandato era stato eletto proprio per fermare la destra, adesso ci flirta, insomma si scambia favori, e quindi insomma direi che l'avanzata dei sovranismi non si ferma con politiche di destra liberale, evidentemente. Beh sì, poi ci sono due aspetti secondo me che sono distinti ma si intrecciano tra loro per spiegare l'avanzata della destra estrema. Uno è appunto che alcuni tipi di politiche favoriscono una reazione di questo tipo, e l'altro è proprio che c'è un gioco di sponda tra le due destre. Tutto questo a livello europeo io lo vedo in modo abbastanza evidente. Per esempio, ieri abbiamo avuto notizia ufficiale del piano per l'inverno della Commissione europea. La Commissione europea propone l'austerity dell'energia. E cosa significa? Significa riduzione dei consumi, presumibilmente anche obbligatoria. Significa municipi, amministrazioni pubbliche costrette a risparmiare sulle luci, quindi io mi immagino qualche lampione spento in più. Significa però incentivi alle imprese e soprattutto significa che la Commissione ci chiede responsabilità, sobrietà, come dicono i francesi, e cioè austerity, però non ha fatto nulla in tanti mesi per riformare il mercato dell'energia elettrica e per imporre un tetto ai prezzi. Allora, di fronte a questo tipo di dinamiche, la destra estrema ha tanti argomenti. Ieri la Lega ha detto, l'Europa ci chiede l'austerity, ma soprattutto la destra può dire, per colpa dell'Europa che le nostre bollette restano alte. Quindi matura un'insofferenza. C'è poi anche il fatto che in Europa la destra sedicente moderata e la destra estrema vanno sempre più a braccetto, per esempio su un tema come il clima. Su un tema come il clima noi vediamo chiaramente che c'è un che ricorda un po' la NUP francese, cioè abbiamo dai socialdemocratici alla sinistra i verdi. Dall'altra parte i popolari, cioè il centrodestra per l'Italia, Forza Italia per capirci, alleati tattici con i sovranisti di la Lega e i conservatori, così si fanno chiamare, di Meloni. Quindi contro il clima c'è un'alleanza di destra di ogni tipo senza alcun tipo di cordone. Quindi c'è una scelta precisa delle destre sedicenti moderate di andare all'abbraccio, diciamo così, con la destra più estrema e così di legittimarla nelle istituzioni.